versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori del 24, buon inizio di settimana anche da parte mia, anche se siamo alle 16.35, 40 secondi di questo lunedì 17 di novembre. Allora, oggi continuiamo a occuparci del dissesto idrogeologico, non dei conti italiani. Perché? Perché innanzitutto voglio fargli una domanda precisa per sapere come la pensate su questo punto specifico, e vi invito a telefonare per darci la vostra opinione. Perché c'è una affermazione che mi ha molto colpito e con la quale io sono molto d'accordo, ma mi interessa capire come la pensate voi. È stato il capo missione contro il dissesto idrogeologico, funzione, come capiremo nella puntata di oggi, da giugno riaccorpata a Palazzo Chigi, si chiama Erasmo D'Angelis, ieri in una intervista a dire la seguente cosa: non esiste, testuale, che un paese civile decida di fare Expo 2015 a Milano con opere pubbliche per 1,7 miliardi di euro senza pensare che in queste opere è essenziale che ci sia la messa in sicurezza del Seveso, che ha allagato 8 volte in pochi mesi Milano e centinaia di volte, cioè oltre 340 volte in 150 anni, cioè è un problema stabile del dissesto idrogeologico a Milano. Ripeto, a me sembra esattamente giusto pensarla così, cioè non esiste pensare di fare una vetrina mondiale come l'Expo, fare opere molte discutibili per 1,7 miliardi e non metterci dentro la messa in sicurezza di Seveso, anzi inventarsi le famose vie d'acqua che dovevano essere la riapertura dei canali leonardeschi eccetera eccetera, uno dei biglietti da visita per Expo e per i milioni di visitatori dall'estero che sono attesi. Ecco, la mia opinione è secca, mi sembra che queste parole siano giuste, ma voi che viviate a Milano e in Lombardia come nel resto d'Italia, come la pensate? Perché è una cosa clamorosa dal mio punto di vista che oggi solo scopriamo nelle dichiarazioni anche di chi si occupa di Expo da anni, che effettivamente sì, la cosa del Seveso può avvenire, se avverrà vedremo, non toccava a noi pensarci. Ecco, è la classica dimostrazione di come si procede in Italia. Però nel frattempo che voi telefonate per dirci la vostra opinione, noi abbiamo approfondito in questi 2 giorni il tema su cui si è un po' avvelenato, parecchio avvelenato, il dibattito pubblico tra presidenti di regioni, alcuni come Burlando in maniera più diretta ed energica, e presidenza del Consiglio sul rimpallo di responsabilità tra governo e regioni su quello che è avvenuto, sulle opere non fatte, sulle responsabilità, i presidenti di regioni che hanno detto però i condoni li hanno fatti a Roma, non ci potete credere di fare i miracoli e così via. E la risposta è no, la presidenza del Consiglio è stata: avete voi regioni, qualunque sia il colore delle vostre amministrazioni, sbagliato politica e interventi per 20 anni. Ecco, al di là della polemica politica, quello che io non ho trovato spiegato bene sono i presupposti giuridici, normativi, di quello che è successo in questi ultimi anni tra regioni e competenza degli enti locali e governo centrale. E quindi anche grazie a una nostra ascoltatrice che ci ha mandato una vera e propria ricerca, lei si occupa professionalmente di questo all'interno della pubblica amministrazione e ci ha chiesto l'anonimato, capirete perché se mi state ad ascoltare, perché io naturalmente volevo farla venire in trasmissione, ma lei è stata molto decisa nel dire non mi posso permettere di parlare pubblicamente su questi temi perché noi siamo tenuti alla riservatezza. Ecco, allora il problema è che al di là del contrasto politico, perché a me non interessa fare polemica contro Burlando o fare polemica a favore pregiudizialmente, mi interessa capire quello che è avvenuto. Ecco, i giornali, per mancanza di spazio più che altro, perché la vicenda è complicata, non credo che vi abbiano spiegato bene che cosa è accaduto, perché vale la pena di sentire davvero che cosa è accaduto. Perché noi tra 2010 e 2014, esattamente nella dialettica tra governo e regioni, abbiamo capovolto per 3 volte le competenze, naturalmente con strumenti tecnici complicati da descrivere. Io adesso ve li passerò in rassegna. Intanto c'è una prima telefonata e immediatamente sentiamo come la pensa Mario da Genova. Prego Mario. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Allora, io sono di Genova, vabbè, avete visto tutti questi ultimi 2-3 anni, o in particolare questi ultimi 2 mesi, che è successo. Allora, i problemi a Genova ci sono sempre stati, perché da quando ero piccolo io, dal 70, me li ricordo, ma anche prima, quindi non è che siano delle novità queste alluvioni, le esondazioni dei fiumi, eccetera, eccetera. Il problema lì è uno e unico e solo, che non fanno la manutenzione, uno. La manutenzione a Genova non viene fatta coscientemente, cioè lo fanno apposta, perché io vi posso assicurare che nel 92 c'è stata una frana sopra casa mia e hanno operato nell'emergenza, senza operare naturalmente prima, nell'emergenza ha pagato 4 miliardi di euro nel 92, 10 metri di muro, di cemento alti 4 metri, quindi 40 metri quadrati di muro. Quando succedono queste cose qua, naturalmente le imprese che vengono chiamate nell'emergenza, se in condizioni normali lavorerebbero per uno, in fase di emergenza lavorano per 5, per 10, cioè, quindi guadagnano molto molto di più. 4 milioni di euro per 40 metri, non 4 miliardi. 4 miliardi di lire nel 92, esatto, per un muro di 40 metri quadrati. Non avevo capito io, scusa. Più che una casa di Portofino, certo. Più che una casa a Portofino, perché hanno dovuto lavorare in emergenza. E non sto scherzando, c'era sindaco burlando, o anche delle delibere, tutta la sciastare. Certo. Poi, altra cosa, io l'ho postato sul mio profilo di Facebook, chi vuole può andare a vedere, Ader, A-D-E-R-R, lo vedete. Ultimamente il sindaco Doria ha dato il permesso di fare 136 box in via Cadighiara a Genova, dove martedì scorso c'è stata una frana, e ho postato il video di sabato, c'era un fiume, letteralmente un fiume, che ci passava sopra, e hanno dato il permesso di fare 136 box lì, sapendo benissimo che se fanno questi box, dopo 2, 3, 4 anni, 5 anni, vengono spazzati via, vengono spazzati. Sicuro, quello lì sicuro. Chi vuole può andare a vedere sul mio profilo Facebook. Grazie. Ader, ci sono tutti i video e le foto. E anche questo è importante, perché tu segnali un caso che è venuto adesso con questa amministrazione, che quindi non ha a che fare con la responsabilità del passato. Io vi ricordo il numero di telefono per chiamare e darci la vostra opinione sull'Expo, ma non solo, l'Expo con 1,7 miliardi di opere senza pensare al Seveso, ma su tutto quello che sta ancora succedendo. 800 24 00 24, i messaggi invece al 349 238 6666. Allora, in sintesi, anche se è una sintesi complicata, che cosa è accaduto nelle competenze tra regioni e governo? Poi fatevi la vostra idea. Allora, nel corso del 2010 governo e regioni su questa cosa del dissesto idrogeologico raggiunsero un accordo istituzionale, e dall'inizio del 2011, con 20 decreti del Presidente del Consiglio dell'epoca, furono nominati dei commissari straordinari delegati per attuare interventi urgenti e prioritari, appunto, di mitigazione del dissesto idrogeologico nelle regioni d'Italia, uno per regione. Quindi questo avviene all'inizio del 2011, con tanto di ripartizione di fondo. Che cosa avviene però? Che questa attribuzione di competenze, e qui secondo me hanno ragione le regioni e non il governo, che è cambiato nel frattempo, come sapete è cambiato 2 volte, però l'indicazione di queste strutture commissariali straordinarie non era accompagnata da particolari poteri di deroga al fine di accelerare le loro attività sul territorio. Quindi erano tempi ordinari, quella della burocrazia ordinaria, e anche nella concessione dei fondi non c'era un canale accelerato rispetto a quelli ordinari, venivano individuati, ma per il resto le competenze dal MEF alla regione alle strutture commissariali restavano quelle ordinarie. Per capirci, quando furono nominati quei commissari 3 anni fa, non fu indicata per nessuno di loro nemmeno la sede operativa, le dotazioni, eccetera eccetera. Quindi i commissari impiegarono un mucchio di tempo, praticamente tutto il 2011 il tempo fu dedicato A, da una parte segnalare le incongruenze al governo centrale dell'epoca, visto che avevano un mandato e non avevano gli strumenti di attuazione per perseguirlo, e poi a occuparsi delle incombenze burocratiche, trovare la sede, eccetera, eccetera. Cosa succede a dicembre del 2011? A dicembre del 2011, a quel punto c'è un nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui effettivamente si sblocca una parte delle quote, delle risorse che l'anno precedente era stato attribuito a questi commissari straordinari regionali per la gestione delle attività, l'1,5% del totale dei fondi assegnati, stiamo parlando di questo, ma anche in quella sede, quindi siamo al secondo, per così dire, cambiamento di impostazione, non viene dato ai commissari alcun potere straordinario di deroga rispetto alle procedure né di gestione dei fondi né di esecuzione delle opere. Adesso credo che noi abbiamo già strada in diretta, ricordatevi che 2010-2011, poi arriviamo al terzo rivolgimento, che è quello di pochissimi mesi fa, ma intanto strade. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta, 16:47, primi 40 secondi. Stiamo tentando di ricostruirvi il rimpallo, le modifiche, tre diverse modifiche di competenza avvenute tra il 2010 e il 2014 su questa questione di chi deve intervenire, con che potere e con che risorse sul dissesto idrogeologico. Abbiamo visto 2010, accordo regione-governo su commissari straordinari per regione, non vengono date deroghe a questi commissari. Nel dicembre 2011 uno sblocco solo dell'1,5% del totale delle somme che era stato disposto, ma di nuovo senza deroghe. Arriviamo a giugno di quest'anno, il 24 giugno 2014, decreto legge 91, quindi stiamo parlando governo Renzi, si ribalta completamente l'impostazione. I commissari straordinari individuati nel 2010 e che dovevano durare con i decreti che li avevano nominati fino al dicembre 2015, per poi essere eventualmente confermati o rinnovati, vanno improvvisamente a casa. Per decreto legge vanno a casa e hanno 15 giorni di tempo per passare le consegne, ciascuno dei commissari regione per regione, ai presidenti di regione. E ai presidenti di regione, col decreto legge 91 a fine giugno, si danno anche un bel po', diciamo così, di possibilità di deroghe, di facilitazioni nel procedere velocemente, sia per l'impegno delle risorse finanziarie rispetto ai conti del MEF, sia per le deroghe rispetto a codici appalti e amministrativi. Ma cosa succede? Succede che, come potete immaginare, quei 15 giorni per la transizione di potere dai commissari straordinari che erano in carica dal 2011, ovviamente in 15 giorni le competenze non si passano. Perché? Perché ciascuno di quei commissari aveva nel frattempo istruito, come era inevitabile, centinaia e centinaia di validazioni, studi propedeutici, elaborazioni di documentazioni per cantieri, interventi, verifiche delle opere abbandonate in precedenza, eccetera, eccetera. Tutti elementi che ovviamente fanno in ogni regione migliaia e migliaia di pagine e la cui conoscenza ovviamente è essenziale. Allora, voi capite che questa reimpostazione delle competenze, quella che Renzi dice è stata necessaria perché le regioni non stavano facendo niente, prima non erano regioni ma erano i commissari, mentre adesso diventa attribuito alle regioni questo potere, ma è una cosa rispetto ai tempi della pubblica amministrazione che è avvenuta l'altro ieri. Che cosa avviene nel frattempo? Che alcuni di quei 20 commissari straordinari, parecchi, di fronte ai 15 giorni della transizione impossibile come tempo amministrativo, pongono in atto una serie di cautele per sé e per le proprie responsabilità, delle quali i presidenti di regioni non possono tenere conto, vista l'immensa mole di lavori abbandonati, di segnalazioni dal territorio, di sindaci e così via. Allora, tutto questo è solo per spiegarvi che in questa polemica tra presidenti di regioni e governo, paradossalmente, si possono trovare argomenti a favore degli uni e a favore degli altri. A me sembra che a furia di cambiare impostazioni ogni governo e ogni anno, noi frantumiamo le responsabilità e rendiamo pressoché impossibile a chi arriva a rispondere in pochi mesi con l'autunno che arriva davvero di quello che non è stato fatto per anni. Alla fine tutti hanno delle ragioni, come vedete, e l'ho fatta proprio in maniera molto sintetica questa ricostruzione, però di fatto poi alla fine ci va di mezzo la popolazione, i morti, i danni alle aziende, i danni, quello che abbiamo sotto gli occhi. Dopodiché ci sono le scelte strategiche sbagliate, tipo l'Expo, che per me è una cosa, ripeto, l'Expo senza mettere a posto il Sebeso. Ma sentiamo come la pensate voi intanto, che è più importante. Cominciamo con Alessandro, che appunto ci chiama da Milano. Prego Alessandro. Salve Giannino, io faccio l'agricoltore e mi occupo naturalmente del territorio. Trovo assurdo che ci siano tipo dei volontari dell'ecologia che se ti trovano a tagliare una pianta che impedisce il deflusso dell'acqua ti becchi una multa e il penale, una cosa terribile, che se saltassero fuori dalle tombe i poveri uomini che hanno scavato questi fossi con i badili e le carriole, ci tagliano la testa, ci tagliano la testa. Giannino, invece sul Seveso, il Seveso era un problema 150 anni fa quando c'era tutto il territorio che era agricolo, certo. Adesso è stato tutto urbanizzato fino a Como, il Seveso o passa a sinistra verso il Lambro o passa a destra verso il Ticino, di balle non ce ne sono, chi governa deve cominciare a mettere delle risorse serie e cercare di far lavorare delle aziende serie soprattutto. Grazie Oscar, complimenti per quello che fai. Grazie a te Alessandro. Sul Seveso io temo che Alessandro abbia perfettamente ragione, perché c'è questo problema da secoli e qui insomma c'è poco da fare. La progettazione urbana, ne abbiamo parlato la volta scorsa, e in questo caso è una risposta non all'altezza, completamente sbagliata, e credo che il nostro amico Alessandro consegni una direttrice sulla quale i sindaci di Milano, ma io un presidente della regione Lombardia, perché qui stiamo parlando del regime di più fiumi, di più corse d'acqua tutto intorno a Milano. La risposta che devo dare a un ascoltatore è no, i canali leonardeschi non nascono da necessità prioritaria all'epoca, per quello che ne sappiamo, ma ne sappiamo abbastanza, di reggimentare i corsi delle acque, perché molti di quei canali non erano nient'altro che un completamento della navigabilità che consentiva a Milano di avere una via d'acqua diretta, anzi dalla Svizzera all'epoca addirittura, direttamente a Venezia e alla Laguna Veneta, perché all'epoca questa era considerata una delle vie più sicure rispetto al fatto che c'erano molte frontiere per strada e erano molto insicure. Quindi era all'epoca la priorità era la navigazione e i fini militari più che la reggimentazione delle acque. Molti invece dei canali precedenti, medievali, presforzeschi e così via, corrispondevano a quel fine, a fine agricolo, questo non c'è dubbio. Claudio da Milano, prego Claudio. Sì, io voglio dare ragione assolutamente a lei, Oscar, e all'ascoltatore di prima. Perché? Perché di solito non ci sono mai i responsabili. Ecco, i responsabili non si trovano mai. Quando si costruisce vicino ai fiumi, si fanno opere che non sono, che poi basta fare i condoni e tutto va sempre bene. Le imprese che lavorano, non c'è mai il responsabile. Dopo 10 anni succede il disastro e non si sa più chi è che ha firmato quei fogli, chi è che ha dato l'autorizzazione a costruire. Spariscono logicamente sempre tutti. E poi sull'Expo volevo aggiungere che solitamente quando in una famiglia magari uno perde il posto di lavoro e manca uno stipendio, in casa cosa succede? Ci sono ristrettezze, in questo momento in Italia siamo in ristrettezze, e quando uno deve fare delle migliorie alla casa non pensa a comprare il divano nuovo oppure a dare il bianco, ma si pensa più al tetto che non faccia entrare infiltrazioni, certo. Magari alla caldaia che produca acqua calda per fare il bagno ai bambini piccoli. In Italia è così. Claudio, ti ringrazio, io dico solo, non è una polemica con Renzi, ma figuratevi se io ho dato colpa, dico solo che bisogna costruire questo palleggio di competenza. Ci sono un mucchio di messaggi e ohimè credo che sull'Expo però la stragrande maggioranza di voi la pensi un po' come me. Speriamo che non sia davvero un'occasione perduta, nel frattempo che i prossimi giorni non ci riservino di peggio. Continuate con Radio 24, appuntamento a domani.